dal 14 al 19 marzo, Fiera Immensa, undicesima edizione. Socialità e solidarietà altre nell'area delle ex officine delle Ferrovie della Calabria. Consulta il programma su fieraimmensa.noblogs.org oppure cercaci su Facebook. Fiera Immensa, essici anche tu!